Allora, buonasera a tutti, willkommen alle, parleremo in italiano ed è un peccato per tanti motivi. Per esempio, avremmo gustato doppiamente una relazione che è una delle dei diamanti, dei petali più belli del bouquet di questa sera. Si parlerà di saggistica, di narrativa legati soprattutto alla Grande Guerra, e per festeggiare e celebrare l'ultimo numero della rivista comunicale Letteratura, che è uscita quanto tempo fa? Fine di luglio. Ecco, un giornale a cui vogliamo bene, per carità, personalmente forse non sono il solo, voglio più bene al Corriere della Sera, ma è un problema, come dire, di maglia, di casacca della squadra, ma la Dolomiten esce sullo stesso tema venerdì scorso. Quindi le responsabili di comunicare Letteratura hanno la chiave d'accensione di una macchina del tempo, o sono particolarmente brave e lungimiranti. Lo sono anche perché ci interrogavamo qualche giorno fa con la direttrice sulla forma rivista. Naturalmente poi approfondiremo dei contenuti, uno un po' tutti e quattro, le signore e anch'io. Però ecco, il discorso della forma rivista merita, credo, un paio di minuti, perché le riviste letterarie sono sempre state una specie di spettro che si aggirava, soprattutto per i cieli europei, meno quelli americani, nonostante la passione per le riviste dei miei colleghi delle università statunitensi, e non si capiva bene la rivista letteraria che cosa fosse: un'araba fenice, un'entità inafferrabile o altro. Noi tutti abbiamo fatto delle esperienze dirette e indirette con i numeri di Kurzbuch di Enzensberger, con in Italia con i Quaderni Piacentini, ne avete sentito parlare perché siete tutti molto giovani, quindi non li avrete letti quando uscivano in edicola, e comunque della forma rivista, soprattutto dell'oggetto rivista letteraria, si parla poco, e questo è credo molto sbagliato e anche molto provinciale, tant'è che io non esito a dire che tra i presenti, speriamo non solo tra i presenti, io auspico che ci siano persone che ci procureranno un abbonamento o comunque i numeri di questa rivista e lo metteranno sotto l'albero al posto di un maglione che magari può aspettare, o che andrebbe a far compagnia altri 30 maglioni altrettanto belli. Fuori di battuta, in questi giorni io mi sono sentito con alcuni amici molto cari del Corriere della Sera Nazionale che lavorano per l'inserto culturale che si chiama La Lettura, che esce la domenica, e anche con le pagine quotidiane di cultura, e ci siamo chiesti che fine stanno facendo le riviste, soprattutto le riviste letterarie. Risponderemo nel giro di un mese o due, spero che ci leggerete, ma nel frattempo lasciamo parlare Comunicare Letteratura, che nel numero che voi sicuramente vi accaparerete anche a costo di strapagarlo al mercato nero, oltre che per l'abbonamento, che è questo. Io non sono molto bravo a vendere libri, ma vi prego di annotare Comunicare Letteratura numero 7/8, Grande Guerra e Letteratura. Ecco, io più di così c'è la cartolina, c'è la cartolina, c'è la cartolina, c'è la cartolina, eccetera. Guardate che la principale, poi magari aggiungerò qualcosa dopo il primo giro di interventi delle mie molto illustri e care colleghe, guardate che la qualità di una rivista letteraria è pressoché unica, Io non credo di che riceverò mai l'invito a scriverci sopra, quindi non è una captatio benevolenze, se altre riviste, non parliamo dei giornali, io sono un quotidianista, insegno anche storia del giornalismo, ma insomma il mio lavoro principale, la mia professione principale è fare il giornalista di quotidiani. Se le università, naturalmente i quotidiani, non solo in Italia, raccolgono un po' tutto, no? Alto e basso e tutto quanto, per accedere a riviste come queste bisogna essere davvero bravi. Ecco perché immagino che ci metteremo subito la croce sopra su un'eventuale mia candidatura futura. E questa è una garanzia di qualità della passione scientifica e del rigore storico e storiografico, che non sono la stessa cosa, una cosa è la storia, una cosa è la storiografia, che dovrebbe essere già questo un segno per cui si entra in una libreria e si dice no, compro anche la Zeit, compro anche i giornali americani della domenica, così faccio l'esercizio fisico, perché come sapete i giornali americani statunitensi domenicali pesano alcuni chili e vengono usati anche nelle palestre per fare esercizi adeguati. Ma vado in libreria e vado a cercare alcune riviste, tra cui questa, che mi sembra un miracolo laico straordinario. Che il fatto poi che ci si occupi della cosiddetta Grande Guerra, su cui tutti ci siamo esercitati sui giornali, nelle università, per cercare di dire non una cosa originale, ma una cosa in più, perché il dibattito storiografico è stato molto acceso, molto fertile anche dalle nostre parti, perché insomma siamo stati coinvolti direttamente. Con questa deliziosa particolarità italiana, per cui nel 1914 eravamo da una parte e dal 1915 abbiamo cambiato fronte come a Giochi senza frontiere, cosa non del tutto, come dire, dignitosa, ma così vanno le cose del mondo. Sappiamo anche che ben prima della fine di quel conflitto così sanguinoso e così lungo, i grandi dell'Europa di allora avevano già deciso che l'attuale Alto Adige Südtirol non sarebbe più stato austriaco. Quindi non abbiamo conquistato, se vogliamo parlare in termini militaresti, un bel nulla. I grandi dell'Europa verso la fine 1916, inizio 17, avevano già deciso che un pezzetto dell'Austria sarebbe passato da uno Stato all'altro. Questa è una delle tesi, perché gli storici sono bravissimi nel litigare anche, no? Sulle fonti, sulla documentazione, eccetera, però è una tesi che io mi permetto di sottoporvi, nella quale peraltro nel mio piccolissimo si parla di Incet, credo anche. Quindi tema complessissimo, come uscirne con scritti, analisi studi, approfondimenti, ricostruzioni di alto rango. Non vogliamo il nonno che racconta come caricava la pipa al fronte. Va benissimo, il mio amico Aldo Cazzullo lo racconterebbe in modo straordinario, Bruna Maria Dall'Agovene lo farebbe, non perché è una ragazza e non un giovanotto, ancora meglio, se ne avesse voglia, con più esprit, però abbiamo bisogno di capire meglio la Prima Guerra Mondiale attraverso anche e soprattutto riviste come questa. Alla cui direttrice, con il sollievo di tutti, do subito la parola. Benvenuta. Grazie. Ringrazio molto Giancarlo Ricci per questa presentazione, che ha già buttato lì alcuni temi che ritengo siano molto importanti. Parto dall'ultimo, a questo punto, per riprendere il discorso. Le testimonianze di guerra, il perché del numero tematico sostanzialmente, perché l'annale, ecco, rivista annale, esce una volta all'anno, e la regolarità, come dire, dovrebbe essere un antidoto all'ansia. Ha ricordato giustamente la lettura, esce un mare di materiale veramente molto bello, devo dire. Io vengo presa quotidianamente dall'ansia, dal materiale che mi si accumula sul tavolo, che io non riesco neanche a sfogliare, proprio non ce la faccio con tutta la più buona volontà. Allora l'idea qui era un qualche cosa che combattesse questo, ovvero che dura un lasso di tempo sufficientemente lungo per cui uno non si senta incalzato dovervi, come dire, doverlo rincorrere questo materiale. All'inizio, quando nacque nel 2008, in questo formato, comunicare letteratura, era figlio di una precedente esperienza con la casa editrice del Mulino, che era durata 7 anni, comunicare letterature e lingue. La formula era analoga, è stata poi, come dire, perfezionata e focalizzata meglio, ovvero testi di letteratura primaria, cosiddetta, cioè i testi proprio, e letteratura secondaria, ovvero la critica, sia di lingua che di letteratura, che dovevano mischiarsi in un certo senso, con una come dire, però, premessa molto chiara: i testi di critica non dovevano essere pensati per degli specialisti strettissimi, ovvero i destinatari non era il pubblico universitario. Chi scriveva poteva essere, e molto spesso lo era, un lavoratore dell'università, un ricercatore, uno studioso, ma doveva comunque formulare le sue ipotesi, le sue tesi, la sua scrittura doveva raggiungere un pubblico ampio, doveva essere una scrittura gradita e accessibile agli studenti, agli appassionati sostanzialmente. Quindi questo discorso della scientificità c'è tutta, ma è una scientificità che si sposa anche con la voglia di farsi leggere, non di produrre un qualche cosa che serva soltanto per il concorso universitario successivo, se mi permettete questa battuta un po' trita. Detto questo, l'altra premessa che è rimasta anche per questa nuova serie era quella di far sì che dei giovani che solo in apparenza hanno molte possibilità di pubblicare, potessero far confluire qui i risultati di certi loro lavori. Io sostanzialmente mi ci sono impegnata perché all'università in tanti anni ho avuto veramente tanti studenti bravissimi, con delle tesi conclusive di quadriennale o delle tesi di specialistica o delle tesi di dottorato ancora, che rimanevano nei cassetti in attesa di non si sa bene che cosa. Il mio obiettivo era quello di far sì che a loro avessero una prima possibilità, quindi una sintesi, l'idea migliore che c'era in questi loro lavori doveva arrivare qui. La limitazione che l'annale si è posto è quella geografica, non temporale, non abbiamo alcuna preclusione di tempo, ma di spazio, ovvero abbiamo voluto concentrare il nostro interesse all'area austro-tedesco-slava. Voi in questa descrizione riconoscerete allargati, se vogliamo, un po' i confini della vecchia Mitteleuropa, ovvero volevamo far dialogare fra loro queste letterature che avevano avuto un humus comune e vedere come quest'humus comune nel tempo aveva fruttificato. L'idea per me è molto forte perché vengo da un'esperienza ormai di 20 anni con la Biblioteca Austriaca di Trento. Sono la responsabile scientifica di questa biblioteca, che è una biblioteca specialistica fondata dall'Austria con l'accettazione da parte del Comune di Trento, presso la Biblioteca Comunale a Trento, e questa biblioteca, insieme alle 65 altre biblioteche della vecchia Mitteleuropa, lavora esattamente su questo argomento: far sì che la letteratura metta in comunicazione le persone, far sì che l'Austria così come adesso e nella sua cultura storica venga conosciuta in Italia, in Polonia, in Cechia, in Ucraina, in Turchia, quindi allarghiamo un attimo, se vogliamo il panorama, venga conosciuta attraverso la letteratura. Cioè si ritiene che la letteratura sia uno strumento così efficace, così potente, così pervasivo, se vogliamo, che può dare un'idea di quello che un popolo è, di quello che è la sua cultura, di quelle che sono le sue evoluzioni. Ecco, a me questa idea che con la letteratura, che mi era sempre piaciuta, che era il mio lavoro, insomma, si potesse andare anche oltre il mero discorso che la letteratura è divertimento. Andare oltre anche il discorso, meglio leggere un libro piuttosto che guardare la televisione, è sterile questo, perché se io non giustifico il perché dell'affermazione, lascio il tempo che trova la cosa. Ecco, che cosa posso fare con la letteratura? Questo è un po', diciamo così, quello che sta alla base di comunicare letteratura. La guerra ci è sembrata, a me e a tutta la redazione naturalmente, ci è sembrato un bellissimo argomento per mettere insieme tanti tasselli. Per mettere insieme lirica, per mettere insieme le prose, per mettere insieme poi teatro, tanti paesi, c'è l'Italia, c'è l'Austria, c'è la Germania, c'è la Boemia, c'è l'Ungheria, c'è la Russia, c'è la Serbia, ecco, ci sono veramente tantissimi paesi che dialogano in un tentativo di scrivere o di farlo meglio, di proporre alcune idee per scrivere una storia della letteratura di guerra fatta dagli scrittori del tempo. Quindi ci sono i testi, ci sono anche delle analisi su singoli movimenti, su singoli autori, su singoli aspetti. Questo anche perché? Perché la letteratura durante la Prima Guerra Mondiale e prima e dopo è stato un mezzo espressivo fortissimo. Tutti scrivevano poesie. Il primo mese di guerra in Germania si parla di 50 milioni di componimenti poetici lirici. Si andava in guerra con Rilke nello zaino. Cioè, zaino voleva dire peso, voleva dire portarsi quello per sopravvivere, eppure si portava Rilke nello zaino, si leggeva Rilke, si scrivevano poesie. Uno degli autori che trovate qui, che io ho studiato molto, è un ragazzo di 18 anni, un giovane ufficiale austriaco, che scrive un diario in versi, molto bello. Perché? Perché con la poesia, nelle condizioni peggiori che voi tutti ben conoscete, questi ragazzi, questi giovani, questi uomini cercavano di tenersi ancorati alla realtà, sostanzialmente cercavano di non morire, se vogliamo. La poesia e la scrittura, perché poi ci sono anche i diari eccetera, era una sorta di ordine che si frapponeva al disordine, al caos che li stava divorando. Quindi si riacquistava quel minimo di dignità nel momento che si utilizzava la parola in una dimensione diversa, per elevarsi, se vogliamo, chiamiamolo pure così, senza, diciamo, tema di sembrare retorici. E questo attraversa tutte queste lingue nelle quali queste testimonianze sono state fatte. E questo mi fermo perché altrimenti... Naturalmente. Grazie. Continuerei. Del resto mi viene in mente che persino le cartoline che dal fronte venivano, partivano con tutti i problemi pratici legati a questa cosa, erano spesso delle cartoline con 10-15 righe di racconto, di cosa, per cui c'è una letteratura talmente sfaccettata e talmente la diaristica, eccetera, per cui è un patrimonio straordinario. Insisto, non voglio fare Alice nel Paese delle Meraviglie, ma che ritrovare molto di tutto questo che anche la direttrice ha ripercorso in un unico volume mi sembra un regalo di Natale per noi e per chi lo riceverà, assolutamente stratosferico. Tu, Maria, concordi? Con il regalo, senz'altro. Sul regalo, senz'altro. Se permetti, tutto, ti do la parola. Su tutto in abbastanza. Allora, prima di tutto, non sono convinta che appunto anche questi piccoli diari o questi piccoli riferimenti a personaggi o a storie di persone siano inutili. Anzi, qui dentro, io su due di questi pezzi ho proprio fatto il punto, ma poi lo dirò in un secondo momento. Ecco, ma prima di tutto mi sembrava molto interessante arrivare ad una definizione, appunto, cum munis, cioè comunicazione, e questo munis, ufficio, incarico, dovere, funzione, mi sembra proprio della parola incarico la parte più bella, cioè come una specie di, come diceva Paola Maria Filippi, una specie di imperativo categorico, per cui è importante, è necessario in qualche modo comunicare. E io direi letteratura, naturalmente, ma anche attraverso letteratura. La differenza che c'è stata fra il comunicare letteratura e comunicare con altre arti, che fa parte naturalmente di tutto il periodo della guerra, tutti gli artisti, i Kriegsmal, non so, e tutto questo, ecco, è particolare per quanto riguarda la letteratura. Direi che mentre i Kriegsmaler, in qualche modo stipendiati, perché lo erano, e per andare a fare i reportage di guerra, se volete chiamare così, insomma, forse oggi si direbbe così, una volta si diceva diversamente, qui invece c'è proprio questa cosa che parte da dentro. Questa frase che tu hai detto è stupenda, l'idea di andare in guerra portandosi nello zaino, con estrema fatica, la poesia, cioè la poesia in questo senso. E a questo proposito, ancora bellissimo, non in questi numeri ma nel numero 6 del 2013, questa bellissima dedica alla vostra rivista di Peter Anke, se l'ho trovata molto molto bella, di Literatur wird zum Schneemenschen, che è un pezzettino che potrei anche leggervi, ma la parte che più mi piace, riferita naturalmente in particolare a, non a questo numero, ma a tutti i numeri, è quello sui traduttori, che dice allora, e racconta come un tempo forse più lontano ma tanto più penetrante nel cuore, come musica remota da dentro il mondo e dal suo cuore, e i traduttori sono eroi silenziosi, pazienti, si spera anche in grado di intonarla, scusami, non so più leggere la mia grafia, ma questa è la mia grafia, non so leggere, di intonarla in sordina. Questo appunto, questa parte mi è sembrata veramente molto molto bella. Io devo la mia presenza qui alla mancanza, la mia presenza la devo alla mancanza di un'amica che ha preso il due di coppe, come si suol dire, ed è andata a Milano, e che, ma ve lo dico con enorme piacere, io ho sempre seguito questa rivista, però mi sono trovata in una settimana a leggere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tutti quanti. Mi è venuta non solo l'ansia, ma di più. Però mi sono veramente rallegrata in maniera molto grande, perché sono tutti, e non saprei quale no, pezzi meravigliosi. Ripetendo quello che tu hai detto, una delle cose importantissime di questa attualità temporale, frase tua, è il fatto che si dà spazio a anche, non solo, ma anche ai giovani ricercatori naturalmente, ai giovani che sono in grado di poter scrivere, come dici tu, Giancarlo, che si possano essere adatti a scrivere in questa prestigiosissima rivista. Ecco, e io qui, e qui termino per poi parlare dopo, mi sono innamorata di due pezzi di due giovani e di un altro pezzo che è veramente un racconto di un ungherese. Perché? Forse perché c'è un perché molto, potrei raccontarvi, come diceva Giancarlo, la storia della mia vita, saremo lì, un po' per la mia giovane età, numero uno, e un po' perché veramente faccio proprio parte, proprio fino al collo, di questo gruppo di persone che non sapeva davvero da che parte stare, perché sono da una famiglia più che mista, una nonna ungherese, un'altra ladina, un poco di austriaci, un poco di trentini, tutto messo insieme. No, ho anche un bisnonno norvegese, mi sono sbagliata. Ecco, c'era anche quello. Comunque, allora, vivere questo momento è stato, è per me molto interessante anche riviverlo, adesso parlo dell'ultimo numero, del numero 7-8 e non degli altri, è stato veramente un entrare profondamente nella di quello che io ho sentito, quello che ho vissuto e quello che mi hanno raccontato. Per esempio, un piccolo, piccolo, stupidissimo fatto, una cena a casa della mia nonna ungherese, e quando mio nonno, ufficiale della gendarmeria austriaca, si alzava in piedi, batteva i tacchi, diceva per sua eccellenza l'imperatore Francesco Giuseppe, bla bla bla bla, tutti i titoli in fila, mia nonna, che era una donna molto elegante, molto raffinata, dove eravamo seduti mio fratello e io ai suoi lati, diceva: quel porco che ci ha ammazzato il Rodolfo, per dirvi, ecco, per com'era la storia. E così via, insomma, questo era un modo. Ecco, le due persone che ho scelto, oltre alla nostra amica carissima Giovanna, che poi parlerà del suo lavoro, ho scelto anche un'altra cosa che mi è piaciuta in maniera straordinaria, ed è stata una di una giovane ricercatrice che si chiama Chiara Marsili, e non è assolutamente una plagiaria, scusami, ma non mi è venuto in mente dopo, scusami, giuro, non mi è venuto in mente dopo. Comunque, che è veramente straordinario, perché è la raccolta di un ritrovamento o non ritrovamento, cioè di un ritrovamento di un testo, di un personaggio che, essendo dalla parte italiana e spostandosi, come succedeva nelle trincee, quindi storie ce ne sono infinite, delle trincee tedesche, ritrova questo diario. Questo diario va perduto, se ne hanno delle copie, su questo diario poi è stato fatto questo lavoro, questa ricerca e questo lavoro. Un'ultima cosa volevo dirvi: mi è piaciuto, per il momento, mi è piaciuto moltissimo un film che ho visto da poco, qui da noi, che è Der Stille Berg, di un regista, Ernst Gosner, un bellissimo film, che proprio arriva a questa parola stille, che mi piace moltissimo, che è la ricerca del silenzio della montagna dopo il rumore della guerra. L'ho trovato molto molto bello, fatto anche molto bene con riferimenti vari, ma comunque un bellissimo film, sempre su questo tema. Possiamo parlare da Giovanna? Certo. Sì, a questo punto, dopo aver sentito da parte di quei signori, quello che ho potuto anche da parte mia, che cosa è questa rivista, non soltanto questo ultimo numero così preveggente, il direttore della Dolomite l'avrà un coccolone stasera o domani, ma speriamo ne guarisca per Natale, e naturalmente scherzo, dopo aver avvolto questa rivista e avere ascoltato cose così interessanti e suggestive intorno a questo lavoro, entriamo, apriamo la porta, un piccolo cigolio, e andiamo a vedere un esempio di uno dei contributi che è ospitato da questo numero ultimo di Comunicare Letteratura. Quindi grazie. Ti prego di intervenire. Per riprendere le parole della professoressa Paola Maria Filippi, ecco che cosa si può anche fare con la letteratura. Si può anche dare voce a un autore sconosciuto. Dare voce a un autore sconosciuto, sottrarlo all'oblio, è sempre una cosa nobile e bella, e lo è ancora di più se si tratta di un autore morto in circostanze tragiche, quali conflitti e guerre, come è il caso di Franz Janowitz, l'autore di cui ho scelto di tradurre un brano per quest'ultimo numero di Comunicare, dopo che la professoressa mi ha dato l'opportunità di preparare un lavoro per questa rivista. Inoltre mi ha ispirato anche un libro di Quinto Antonelli, ricercatore del Museo Storico di Trento, dal titolo I dimenticati della Grande Guerra, che parla di tanti italiani che hanno combattuto con la divisa austriaca e di cui si è perduta la memoria. A volte penso al concetto di milite ignoto, dei tanti uomini che non sono riusciti a tramandare qualcosa ai posteri, e mi auguro, e permetterete questo gioco di parole, che ci siano sempre meno militi inediti, per così dire. Succede infatti a volte che le opere di scrittori militari, di scrittori combattenti, non oltrepassino i confini della loro lingua, e uno dei grandi meriti di questa rivista, interessante e speciale a mio parere, è anche quello di veicolare scrittori considerati scrittori, poeti più sconosciuti perché considerati minori nel loro stesso paese di origine a volte, o che per questo altri motivi non sono stati appunto tradotti. Di scrittori militari ne abbiamo conosciuti tanti nella storia più recente. Più volte in questo stesso volume si parla dell'interventismo di un Ungaretti. Conosciamo bene le imprese spettacolari di D'Annunzio, che non esitava certo a esprimersi sulla parola in favore del conflitto, ma anche le posizioni pacifiste hanno contraddistinto molti intellettuali. Citiamo solo alcuni dei nomi più famosi, arriviamo in terre più ci spostiamo in terre più germanofone: Karl Kraus, la scrittrice baronessa Beata von Suttner, o il giornalista ed esperantista viennese Alfred Hermann Fried. Con questo cognome non si può che essere pacifisti, naturalmente. Questi ultimi due, von Suttner e Fried, tra l'altro vinsero anche il premio Nobel per la pace. Anche l'autore da me trattato, Franz Janowitz, appartiene a chi, come ha scritto Canetti, cito: «In diesem Jahrhundert geboren wurde und dazu verurteilt war, in ihm zu leben», che cioè è nato in questo secolo ed era dunque condannato a viverci. Un secolo che ben presto è cominciato con un conflitto, con un enorme conflitto mondiale. Janowitz era un giovane e promettente studioso boemo di lingua tedesca, morto all'età di 25 anni al fronte durante la Prima Guerra Mondiale. Un ragazzo che, piuttosto che arruolarsi nell'esercito, era pronto, come ricorda in un Nachruf, scritto commemorativo suo fratello Hans, era pronto, cito, auf alle Rechte an der Zugehörigkeit zu Österreich-Ungarn zeitlebens zu verzichten, cioè a rinunciare a vita ai suoi diritti di cittadino austro-ungarico. E nonostante ciò, ci ricorda sempre Hans, suo fratello, lui andò a fare il suo Freiwilligenjahr, come lo chiamavano allora, l'anno di leva, qui a Bolzano, al Tirolo Kaiserschützenregiment. Dice Hans, so unfreiwillig wie nur irgendeiner, questo Freiwilligenjahr. Sembra un paradosso, ma si chiamava veramente così quest'anno di leva. Quando ho scoperto un po' per caso questo scrittore, lessi anche in un articolo che, ironia della sorte, l'unica immagine che ancora possediamo di Franz Janowitz è proprio questa, che lo ritrae in uniforme da militare. Ho poi scelto di approfondire i miei studi su Janowitz e di tradurlo, anche perché sono rimasta affascinata dalla sua biografia, tanto breve quanto interessante. Ci sono molti aspetti interessanti. Il giovane Franz, che si è diplomato al Grand Gymnasium di Praga, dove aveva studiato anche Rainer Maria Rilke, comincia fin da giovanissimo a frequentare i caffè letterari più importanti, tra cui spicca il Caffè Arco di Praga, i cui intellettuali che lo frequentavano usavano chiamarsi Arconauten. Si vede la foto un po' così. È qui, in questi caffè letterari, specialmente all'Arco, non si va bene, ma prima si è visto, insomma, poi passerò semplicemente a leggervi alcune citazioni che possiamo appunto leggere insieme. Grazie, se poi... Grazie mille. In questi caffè letterari riesce Janowitz a fare l'amicizia con i grandi nomi del suo, del nostro tempo, quali Willy Haas, Franz Werfel, Max Brod, e finalmente arriva a conoscere il suo grande modello Karl Kraus. La stima di Kraus nei confronti di Janowitz crebbe così rapidamente che ben presto Janowitz divenne uno dei suoi poeti prediletti. Questo ce lo testimonia anche una cospicua corrispondenza epistolare. Janowitz continuò anche dal fronte a scrivere tantissime lettere ai suoi cari, anche ai suoi amici più cari. Abbiamo testimonianza di una grande amicizia tra i due che si sviluppò rapidamente. Quando Kraus apprese che il suo giovane amico, il giovane poeta, era morto, in una lettera indirizzata alla baronessa Sidoni von Nathermi, che era una salottiera e intellettuale dell'epoca, anche amante di Kraus a quanto pare, Kraus scrisse: Franz Janowitz, ein Lichtpunkt meines Lebens, ist erloschen. Fanzianowicz, una luce nella mia vita, si è spenta. Kraus scrisse anche un pubblico omaggio per il giovane, in memoriam Fanzianowicz, e qui parla con toni molto, qui manifesta tutta la sua ammirazione parlando di un poeta puro, von einem reinen Dichter, e dice ihn habe ich geliebt, e conclude con la frase sein Andenken sei geheiligt, addirittura sia santificato il suo ricordo. Oltre a Kraus, anche Max Brod sviluppò una grande ammirazione per Fanzianowicz. Brod, che pubblicò Arcadia, un almanacco di poesia, scelse ben 14 componimenti lirici del ragazzo che comparvero quindi accanto alle poesie di autori già affermati dell'epoca, quali Kafka, Kurt Tucholsky e Franz Werfel, appunto. Ecco, fondamentalmente bisogna dire questo, che Janowicz era noto più che altro per le sue poesie, per la sua opera lirica. Brod scrisse Ich bin überzeugt, dass sich zu einem der größten Dichter unserer Zeit entwickelt hätte. Sono certo che egli sarebbe divenuto uno dei più grandi poeti del nostro tempo. Un po' di gossip anche in questo frangente non fa mai male. Aggiungo che la baronessa von Nathermi, di cui ho parlato poco fa, si spinse ad affermare che Werfel avrebbe addirittura rubato molte idee a Fanzianowicz per le sue stesse poesie. È scritto nero su bianco, quindi vogliamo anche ci piace crederci. Tutte le ambizioni del giovane Janowicz erano infatti proiettate esclusivamente sullo studio della filosofia e sulla sua attività scrittoria. Inizialmente costretto dal padre a studiare chimica a Lipsia, lo troviamo però ben presto a Vienna, iscritto alla facoltà di filosofia. Siamo nell'anno accademico 1912-13. Quando scoppia la prima guerra mondiale, Janowicz è costretto a combattere in Galizia. E sappiamo, sempre grazie alle testimonianze di suo fratello Hans, che nel suo zaino, come di cui parlava prima Paola Maria Filippi, nel suo zaino Janowicz si è portato le opere di Gerhard Hauptmann, di Thomas Mann, naturalmente di Karl Kraus, e sappiamo anche che al fronte non smise mai di scrivere, non smise mai di comporre poesie, ma anche scritti di prosa. È sempre Hans a riportarci una frase che insomma, ci fa venire i brividi. In una lettera dal fronte, Franz scrisse alla sua famiglia questa frase, questa bella frase chiastica: Ich bin kein Krieger, ein Krieger bin ich nicht. E invece purtroppo da Krieger Franz morirà, perché il 24 ottobre del 1917 viene colpito al polmone durante un'azione militare sul Monte Rombon, Alpi Giulie, e pochi giorni dopo il 4 novembre soccomberà le sue ferite. Le poche opere che Janowicz ci ha lasciato sono spesso incompiute, frammentarie. C'è anche un piccolo giallo, a quanto pare una storia vera, l'altro fratello Otto, il terzo fratello, che ben presto si trasferì negli Stati Uniti e divenne un compositore di musica abbastanza famoso, di colonne sonore. Portò molte, quasi la totalità delle opere di suo fratello a New York con sé, ma nello scantinato del suo appartamento, della sua casa, scoppiò un incendio e purtroppo molte opere andarono perse. Nonostante le tante recensioni positive, solo nel 1992, quindi nel centenario della sua nascita, il germanista Dieter Sudhoff raccolse in un volume, che è questo, vi faccio vedere, tutta l'opera omnia di Franz Janowicz, tutte quindi le sue poesie. Il titolo recita Auf der Erde und andere Dichtungen, quindi si sottolinea il fatto, viene sempre sottolineato il fatto che l'opera principale di Janowicz sia la poesia, ma troviamo anche i suoi testi in prosa, anche quelli rimasti soltanto dei frammenti, e naturalmente tutta la corrispondenza e le testimonianze su di lui, c'è anche il necrologio di Kraus. Tra i testi in prosa spicca una serie di 38 massime che già all'epoca erano considerate un significativo esempio di aforismi espressionisti contro la guerra. Questi aforismi sono, queste massime sono, portano il titolo Das Reglement des Teufels, che io ho tradotto appunto come Il regolamento del diavolo. Questo testo possiede una tale profondità di pensiero che lo rende ancora attuale al giorno d'oggi. Soprattutto ciò che colpisce il lettore è anche la mordace ironia che caratterizza alcune di queste massime. Io adesso, per terminare, desidero presentarvi brevemente alcuni passi in modo che, o meglio, con la speranza che possiate essere curiosi di leggervi tutto il resto di questa breve opera. Allora, vado avanti. Un esempio. Questi aforismi sono tutti numerati, ci ricordano un po' altri reglement di guerra, questo diviene quasi un termine tecnico in un certo campo della letteratura. Ci ricordiamo per esempio di un Karl von Clausewitz che nel 1832, quindi neanche 100 anni prima di Janowitz, scrisse un simile regolamento sulla teoria della guerra, anche se i suoi aforismi, le sue massime erano molto più serie. Qua per esempio leggiamo: Den Nationen ist gegenseitige Angst voreinander einzuflößen. Die innere Habgier spiegele sich im Antlitz des Nachbars. Losgelassene Friedensangst gibt den haltfasten Kriegsmut. È il diavolo che parla, è Satana che parla, come capiamo dal titolo. Bisogna incutere timore reciproco alle nazioni, che la verità interiore si specchi nel volto del vicino. La paura della pace liberamente diffusa alimenta il più valido coraggio in guerra. Ecco, qui assistiamo a una brutale istigazione al conflitto, addirittura sembra un paradosso, ma si parla non di paura della guerra, bensì di paura della pace. Il numero 20 è uno di quelle massime che ci appare essere veramente molto attuale. Die gesamte Geschichte ist von den Gelehrten der einzelnen Länder zu verfälschen. Scusatemi, qui c'è un errore, zu verfälschen naturalmente. Die Jugend jeder Nation sehe als Geschichte die Aufeinanderfolge ihrer mehr oder minder gelungenen Versuche der Vorsehung an, ihrer Nation zur Weltherrschaft zu verhelfen. L'intera storia deve essere falsificata dagli studiosi dei singoli paesi. La gioventù di ogni nazione consideri la storia come il susseguirsi di tentativi della provvidenza, più o meno riusciti, di far ottenere alla propria nazione il dominio sul mondo. Quindi qui la storia, dopo che è falsificata, nella seconda frase ormai è messa fra virgolette, perché non è più la storia ufficiale, ma è qualcosa di finto, di falso e di strumentale. Ecco, andiamo a un ultimo esempio, così da prendiamo spazio Per esempio è uno delle massime un pochino più ironiche. Man rede jeden Menschen ein, dass seine Nation Gottes Lieblingsnation sei. Das nähere hierzu lese man in Chamberlains Schrift nach. Si comunica ogni uomo che la sua nazione è la nazione prediletta da Dio. E poi, per inciso, tra parentesi, ulteriori dettagli su questo argomento si possono leggere negli scritti di Chamberlain. In verità avevo proprio l'ultimissimo aforisma che leggerò solo in italiano. Diventi un'incrollabile convinzione di tutti l'opinione che colui che getta via la propria vita in guerra è un eroe e colui che la vuole conservare è un codardo. Ecco, anche questo mi pare, una frase molto attuale, questi nuovi metodi di guerra, dei cosiddetti kamikaze, che sono veramente pronti a gettare via la propria vita per diventare eroi, ma questo sicuramente non è un tipo di eroi di cui abbiamo bisogno. Grazie. Facciamo il giro all'incontrario, darò la parola con grande piacere a Bruna Maria fra un minuto. Massimo due, un po' di orologio. Mi pare che abbiamo capito un pochino il metodo e la scansione soprattutto di questo numero, ma non soltanto di questo numero della rivista. Si tratta di approfondimenti interessanti e anche abbastanza coraggiosi, diaristici, storici, storiografici. C'è anche questa cosa che ha, in questa città ci è abbastanza familiare, cioè dell'approccio babelico, almeno delle due lingue principali che dovremmo tutti parlare, credo che coloro che si rifiutano o sono pigri dovrebbero ricevere carbone e non regali fra qualche giorno. Di recente mi è capitato di parlare a lungo con alcune persone che mi sono care e che hanno scelto il mio giornale per farsi intervistare, come Ingo Schulze, che ha raccontato insieme a Peter Schneider e a pochissimi altri così bene la Wende, ma anche gli anni precedenti del muro di Berlino in Europa, il quale mi diceva, cioè, ogni tanto mi interrompeva e mi diceva: ma i bilingui pensano meglio? Io dicevo: guarda, dipende, non, però probabilmente hai ragione. Oppure il regista di Heimat che ha avuto una popolarità anche in Italia molto, molto grande e che continuava a ripetermi lui bilingue, lui è bavarese, è la sua casa di produzione di vicino a Monaco, che lui i bilingui li aveva sempre invidiati. Peter Schneider, grande protagonista del movimento studentesco e poi della letteratura in Germania, vi consiglio un libro che non è ancora uscito in italiano che si chiama Ci sarà pure un motivo per cui tutti vogliono venire a Berlino, che è una specie di time out e di guida interessante. Segnalo di lui la traduzione italiana fatta molto bene del suo ultimo romanzo di Lieberman e Mutt, che è uscito qualche mese fa e che mi pare abbia interesse anche qua. Quindi l'approfondimento, torniamo alla risa, l'approfondimento abbastanza antologico, l'approccio babelico. Che altro di questa rivista, Bruna Maria? Oltre sicuramente dirai delle cose molto piccanti. Quindi... No. L'approfondimento babelico mi va bene, ma soprattutto mi va bene come posso dire, toccare tantissimi aspetti, proprio come una specie di tasselli di quello che è la grossa problematica che è stata e che continua ad essere la grossa problematica della Grande Guerra, dove io sono della corrente che non è giusto nel senso di onorare la Grande Guerra, per carità, raccontarla sì, ma proprio in questa maniera, cioè nel senso della tragedia di quello che è stata la Grande Guerra. Tragedia soprattutto per la gente di frontiera che ha vissuto ovviamente le cose più terribili, anche quello di essere diviso nelle stesse famiglie, divisi proprio, strappati in due, eccetera. Ma una delle parti che mi ha interessato, parlando di questo numero della rivista, dicevo prima, era, tu hai parlato di film, io ho parlato di film, qui si parla anche di teatro, cioè la possibilità veramente infinita di muovere, giocare il fatto di raccontare questi fatti che sono parte della nostra storia, parte della nostra vita, nostra, dei nostri avi, che è la stessa cosa. Ecco, e ho scelto tre, una ne ha già parlato Giovanna, e due di questi racconti. Qui questo racconto, questo non nulla, il non nulla di Riccardo Giacconi, mi è sembrato particolarmente interessante perché, come dicevo, è il ritrovamento di questo diario che poi non si ritrova, non c'è più in originale, ma c'è in copia, bla bla, eccetera. Poi, seconda cosa che mi è interessato di questo saggio è l'immaginario messo sul diario, cioè quello che dicevi prima, cioè la necessità di poetare, di mettere in poesia giorno per giorno, poesia o prosa, ma soprattutto in poesia, questo enorme disagio, questo vivere in una maniera orrenda, che è stato quello di vivere la guerra di trincee, come è stato, e metterlo, cioè trovare una forma poetica per raccontarlo. Due, e qui è messo come diario. Terzo, è la cosa che mi interessava di più e che riguarda tutta l'antologia, è il fatto della traduzione. Ecco, io trovo che questo tradurre sia una delle cose più importanti. Tradurre, tradursi, in fondo ci continuiamo a tradurre, ci traduciamo, traduciamo noi stessi da pensiero in parola, ci traduciamo continuamente. Chi vive poi, come tanti di noi, vive attraverso le lingue, non sulle lingue ma attraverso, cioè parlandole due o tre nello stesso momento, tutti i giorni, con uno dipende con chi parli della stessa famiglia. Ecco, questo tradursi, o tradirsi, in fondo anche, tutte e due le cose, trasmettersi comunque, mi è sembrato qui estremamente interessante, proprio il discorso sulla traduzione, questo portare in un'altra lingua. E qui è esemplificato in una maniera estremamente interessante, perché la traduzione di questo diario, diciamo, è stata fatta da due personaggi, diario veramente tradotto e opera teatrale veramente eseguita, non che si dice solo così, è stato fatto da due personaggi, Hannes Secca e Andrea Migerocchi, mistilingui anche loro di natura, ma che non fanno i traduttori di professione, neanche un po', sono due persone che parlano le due lingue. E allora qui ne esce una lingua che, per conto mio, e qui sulla traduzione si potrebbe parlare una vita e non lo farò, esce proprio quello che dovrebbe essere l'approccio esatto, cioè far uscire i due cuori, qui parliamo di due lingue, più cuori sono più lingue naturalmente, proprio far uscire il modo di pensare, il modo di dire, eccetera. Una piccola banalissima storia che è successa ad un amico, un grande amico, al quale stava facendo una gita in montagna. Allora un'amica, una terza amica, gli fa un augurio, dice: als un paio pruch. Quello mi telefona disperato dicendo: sai che quella lì si è rotta una, le gambe e il collo? Cosa mi dici? Dico: ti ha fatto solo un augurio. Ecco, solo per dirti come la difficoltà del porsi delle varie lingue diventa veramente un problema. Tutto qua. Ecco, io lascerei intanto così, ti permetto. Grazie. La direttrice della rivista a questo punto che cosa pensa di avendole ragionato pubblicamente in più occasioni, soprattutto questa sera, che cosa pensa di questo numero, quali sono le ulteriori suggestioni che lei si sente di trasmettere agli amici che ci stanno ascoltando? Una cosa che sempre cerco di fare nei limiti del possibile, ad esempio, è dare, parlando, riagganciandomi al discorso della traduzione, è chiedere a chi traduce di spiegare come ha tradotto. Cioè non concludere il lavoro con l'opera finita, ma che ne esca fuori anche quello che è stato il laboratorio interpretativo. Partendo dall'ipotesi e dalla mia personale convinzione che ogni traduzione è una personale lettura che si dà, allora a questo punto che anche il traduttore esca fuori, cioè il traduttore non è invisibile, c'è, è presentissimo e quindi si mostri con le sue idee, si mostri come nella modalità che lui ha utilizzato nel suo lavoro. Un'altra cosa, proprio pensando al discorso che faceva Giovanna prima e anche ad altri titoli presenti qui che non abbiamo ricordato, la rivista con il tempo, quest'annale, è diventato poi un volano, cioè autori e opere presentati qui in brevissime pagine hanno destato l'interesse di altri editori, di altri studiosi, di altri autori, per cui la cosa va avanti, se vogliamo, in un circolo virtuoso. Qui viene anticipata la traduzione e la storia di Domenico Minetti, Domenico Minetti's Nachlass, che ha avuto un grandissimo successo in Austria. Io ho conosciuto l'autore, gli abbiamo pubblicato un breve estratto con dei commenti, la biografia. Il libro è uscito recentissimamente il mese scorso a Roma, perché ha suscitato l'interesse. Cognanovic, io mi auguro fortissimamente la stessa cosa. Adesso lavoreremo perché Janovic venga finalmente conosciuto, ovvero la rivista che diventa un momento propositivo sostanzialmente. Un'altra cosa che sto cercando di fare, sempre legato alla rivista, abbiamo creato una pagina Facebook, perché anche questo ci sta, dove abbiamo centinaia di contatti, per far sì che anche gli autori, che, naturalmente chi partecipa a questo dibattito, ci dicano quello che hanno fatto, che stanno facendo, sempre legato a quanto hanno prodotto per la rivista. Nei numeri precedenti abbiamo molto trattato Tawada Yoko, che è la scrittrice nippo-tedesca che ha un grandissimo successo in tutto il mondo. Lei scrive sia in tedesco sia in giapponese, è venuta spessissimo in Italia. Ecco, chi ha scritto su di lei nei numeri precedenti ha continuato questo lavoro, ha fatto dei convegni, eccetera. Chiediamo che ce lo comunichino. Poi è compito nostro mettere in rete, far sapere che questo lavoro nato qui genera una sorta di comunità. Non è facile, naturalmente. Ad esempio, Elisa Copetti, che è un po' la nostra figura di riferimento per la traduzione del teatro in serbo-croato, ci propone sempre dei pezzi molto originali, molto belli. Tutta l'estate a Trieste, in Istria, in Dalmazia è stato messo in scena un pezzo tradotto per la prima volta da lei per il numero 5. Ecco, quindi anche far sapere che, perché la rivista non è che abbia questa visibilità estrema, però come dire, mi sembra un bellissimo risultato far sì che quello che qui viene pubblicato incuriosisca sia editori più o meno grandi, sia gente di teatro che vada a tingere, insomma, un pochettino in questo. Ecco, da questo punto di vista, un laboratorio. Un laboratorio. Quindi si accettano anche suggerimenti e proposte, io lo dico sempre. Se qualcuno... Un laboratorio, una factory, e peraltro non per, come dire, per portare l'acqua al mulino della mia vituperata e contraddittoria categoria, durante gli anni della prima guerra mondiale i giornali tedeschi e italiani si sono molto esercitati su tante cose, sarebbe interessante indagare anche questo, come anche raccogliere una delle suggestioni di questa sera legata al fatto che a questo riferimento ai combattenti stranieri che vanno in giro per l'Europa e uccidono o si uccidono. Noi trascorreremo, devo supporre, comunque il nostro augurio, un Natale e sereno. Pensate che per la prima volta davanti alla chiesa di Notre Dame a Parigi non ci sarà un grande albero di Natale illuminato. Voi conoscete Parigi, a pochi metri, a poche centinaia di metri c'è il Saint-Beaubourg, a un pochino più in là, spostando un po' la prospettiva, c'è il quartiere di Saint-Denis, che è il quartiere, è stato il primo grande quartiere multietnico della Parigi negli anni 70-80, ancora prima che le banlieue esplodessero. Noi possiamo pensare anche al fatto che davanti a una chiesa, una delle più importanti chiese del mondo, non ci sarà per la prima volta un albero illuminato, nonostante che sia nel cuore più vivo di Parigi. E allora che cosa fare? Fare alcune cose che toccano a ognuno di noi individualmente e, ripeto, non farsi sfuggire qui stasera o in libreria quest'ultimo numero di Comunicare Letteratura e quelli precedenti. Potrebbe essere una piccola occasione in più per stare bene anche a Natale. Auguri, buona serata. Grazie. se volete c'è la cartolina con il sommario e l'indirizzo. No, vogliono, come no. E è poi sufficiente anche scrivere all'editore che la invia, lo spese sono a carico dell'editore. Cioè, quindi voglio dire, per poterla avere basta. Meglio scrivere.